Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Nella provincia di Vicenza, la Guardia di Finanza ha scoperto finora transazioni finanziarie sospette per la bellezza di 36 milioni di euro. Voi direte: nulla di nuovo sotto il sole. Sicuramente, al di là del fatto che la Guardia di Finanza di Vicenza è molto molto puntuale sul proprio territorio, c'è una particolarità. Si è resa conto la Guardia di Finanza che molte di queste operazioni sospette, che non venivano, a volte anche con la complicità di alcune banche, non venivano segnalate, venivano svolte con banconote da 500 euro. Vale a dire, la banconota da 500 euro sta sempre di più diventando uno strumento di riciclaggio del denaro sporco. Voi pensate che nei paesi della Comunità Europea, a fronte di 814 miliardi in circolazione, il 34,9%, quindi diciamo il 35%, era costituito da banconote da 500 euro. Ebbene, vi domando, ma voi l'avete mai vista una banconota da 500 euro? A me credo che non sia mai capitato. Che fine fanno? E noi, prendendo spunto da questa operazione, ne parliamo con il comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza, il colonnello Paolo Borrelli. Buongiorno, colonnello. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, che fine fanno queste banconote da 500 euro? Guardi, ha proprio colto nel segno, c'è un utilizzo che a noi appare assolutamente indebito di queste banconote, ma questa nostra percezione peraltro è avallata anche da qualche studio fatto da parte di agenzie anche allocate in altri paesi. Tenga conto ad esempio che il Regno Unito ha deciso proprio di vietare la distribuzione delle banconote da 500 euro nelle proprie banche, ritenendo che le stesse fossero utilizzate in larga misura dai criminali, evasori fiscali, i soggetti che le avessero acquisito a seguito della commissione di reati. Certo. In particolare, guardi, c'è un'agenzia britannica che si chiama la Serious Organized Crime Agency, che è incaricata della lotta al crimine organizzato, e che ha evidenziato proprio in maniera puntuale come il taglio da 500 euro non avrebbe, ad avviso di questa agenzia, alcun uso legittimo, credibile, in quanto intrinsecamente legato alla criminalità organizzata. Esattamente, esattamente. Ecco, ma nel nostro caso queste, diciamo, questa percezione è stata assolutamente avallata da alcune attività sia di indagine, quindi di polizia giudiziaria, che amministrative nel comparto delle ispezioni antiriciclaggio. E ecco, lei faceva riferimento all'omessa individuazione di operazioni sospette, certo, della normativa antiriciclaggio, che abbiamo rilevato da parte di 4 istituti di credito differenti e di 2 società fiduciarie. Ecco, vorrei chiedere questo, colonnello. Prego. Borrelli, in questo studio, in questi studi che lei cita, che sono stati anche riportati nelle vostre analisi proprio come corpo di Guardia di Finanza di Vicenza, e questo vi fa ancor più onore, voi avete sottolineato come sia facilissimo nascondere queste banconote da 500 euro, ma trasportarne grandi quantità. Ci dice come vengono trasportati queste banconote da 500, e quindi come sfuggono, purtroppo, ahimè, spesso all'attenzione dei controlli? Certo, guardi, è proprio questa l'utilità della banconota da 500 euro, che consente di immagazzinarne, di stiparne, pensi, 20.000 euro all'interno di un semplice pacchetto di sigarette. Una valigetta comune può contenere un controvalore di banconote per 6 milioni di euro, e con il peso ovviamente di pochi chilogrammi. Certo. In una cassaforte di soli 45 centimetri possono esserne custodite addirittura 10 milioni. È questo che rende la banconota assolutamente appetibile per i trasferimenti in contanti di somme rinvenienti da delitto. Tra l'altro, nell'ambito della provincia di Vicenza, ecco, le facevo riferimento prima, abbiamo posto in essere una serie di operazioni ancorate sia a frodi fiscali, quindi a reati penaltributari, sia a fatti fatti reato contro la pubblica amministrazione, corruzione e corruzione, sia ad esempio ad indagini contro il narcotraffico, quindi il traffico di sostanze stupefacenti, in tutti questi casi abbiamo rilevato sempre e comunque la disponibilità da parte dei soggetti indagati e poi arrestati di grandissimi quantitativi di banconote da 500 euro. Certo, io ringrazio il colonnello Paolo Borrelli per questa disamina sicuramente curiosa e interessante sul taglio da 500 euro delle banconote, che sono sempre di più uno strumento di riciclaggio del denaro sporco. Gli auguro buon lavoro, ringrazio Fabio Cantadori in regia e Laura Fagini in redazione. Roberto Colullo vi augura una buona giornata.